Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Cominciamo la settimana, cominciamo con i magazine. Oscilleremo tra un inserto e l'altro, gli inserti culturali che hanno tenuto compagnia durante il weekend. Una lettura, sì, ok, difficile però leggere i giornali in spiaggia quando arrivano queste ventate che scompigliano le pagine, ma il fascino della carta stampata per me va ben oltre a questa piccola difficoltà, anzi averne la possibilità è sicuramente una lettura importante, non solo perché danno approfondimento a dispetto di quella che è una lettura mordi e fuggi da proposta in rete, dove la chiappa click del titolo principale va poi ad oscurare il contenuto, alle volte anche fuorviante. Nei magazine il percorso è leggermente, anzi sensibilmente diverso, come ho detto più volte, da motivazione di approfondimento e di lettura, ed è proprio dalla lettura che partiamo. Altra caratteristica, alcuni come la stessa lettura del Corriere della Sera e Robinson sono presenti per tutta la settimana in edicola, ne consiglio l'acquisto. Oltretutto aggiungo che consiglio alle redazioni, anche se non mi stanno ascoltando probabilmente, di mantenere in edicola per tutta la settimana questo periodico che è allegato per approfondimenti sulla letteratura, la società, il teatro, l'arte, quello che è un approfondimento, come ho già detto più volte, che non è semplicemente velocità. Velocità, comodità, tutto bello, quanti problemi risolti, siamo al long format di pagina 40 e pagina 41 della lettura, invece del Monte Olimpo c'è il display dello smartphone, invece del dio dell'amore c'è Tinder, invece del dio del mercato c'è Amazon. A colloquio con un politologo americano, Ian Bremmer, preoccupato per i danni che le tecnologie digitali stanno provocando all'umanità, e un frate francescano italiano, Paolo Benanti, docente di etica dell'intelligenza artificiale, preoccupato per la destabilizzazione della società. Ecco cos'è l'AI, un'arma che maneggi mentre bevi due birre. È un'arma a doppio, triplo e di più taglio, in quanto certo la velocità, la totalità, l'aspetto olistico di questa informazione diventa però pur sempre dominato da un ristretto gruppo di persone, e bando a questa retorica, il potere dell'algocrazia uccide la democrazia. Fra le risposte, tra l'altro molto condivisibili, che danno i due protagonisti, aggiungo anche quello che diventa poi motivo di contestazione, una possibilità, fateci caso, che non esiste, perché vi rimpallano tra email, possibilità in rete, motivo di consultazione unicamente portato dal mondo digitale, al meglio con dei call center super sfruttati, come viene sfruttato per la maggior parte dei casi questo tipo di lavoro, come tanti altri del resto, che mettono ulteriormente l'utente in difficoltà. In qualsiasi caso, che sia una bolletta da pagare per il libero mercato, uno tra i più grandi tumori che potessero capitare nella nostra società, o per qualsiasi altro tipo di utenza, quando vi è questo continuo rimpallo dato dalle difficoltà continue nella ricerca di chiarimenti o anche nel contestare determinati determinati errori. L'approfondimento va oltre, perché come già ho letto dal sottotitolo molto corposo per questo articolo, invece del dio dell'amore c'è Tinder, e quindi il conoscersi in maniera immediata, lasciando perdere tutti gli aspetti che anticipano questo incontro, tutto l'aspetto di comunicazione e di dialogo assolutamente altrettanto importante, viene eliminato, per non parlare di quello che è anche un aspetto, permettetemi, commerciale in tutto ciò. Quanti locali, quante discoteche hanno vissuto come luoghi di incontro il motivo soprattutto tra i giovani per questo scambio? Ora con le piattaforme digitali tutto ciò ha molto meno senso di esistere. C'è anche più velocità e più immediatezza, si perde una capacità di dialogo e di interazione che è fondamentale. Avrei diversi esempi da fare, anche capitati nel weekend che mi hanno lasciato un pochettino interdetto. Lancio uno stacco musicale, poi vediamo se iniziare con questa narrazione molto particolare, perché mi hanno veramente lasciato un pochettino stranito e stordito. Beh, l'articolo a pagina 40 e pagina 41 della Lettura ne dà un ampio approfondimento e in alcune parti anche condivisibili, soprattutto dalle parole di Paolo Benanti, docente di etica dell'intelligenza artificiale, è un frate francescano, consigliere anche del pontefice, insomma è qualcuno che ha voce in capitolo, e sicuramente quando c'è di fronte l'aspetto della digitalizzazione, abbiamo parlato di spiritualità e il divino, tranquillamente, ve lo dico molto apertamente, io sto con il divino, sempre. When I know she said, took it near her, but I'm feeling cold and I must leave her. Sat down here with my head hung down and I just seem to find a bit of peace. Sovrumano divino che il digitale o che l'intelligenza artificiale. È quanto mai, appunto, come molte volte viene definita, disumanizzante. Trasformo in Cupido sulla spiaggia di Scanno Cavallari, nello splendido resort tropicale polesano del Ghebo. Mi trasformo in Cupido, una giovanissima adolescente amica Beh, giustamente, attenzioni per il ragazzo coetaneo che sta portando lettini, che fra l'altro è una carissima persona, un carissimo giovane collaboratore dello stesso resort, che appunto dà una mano e quindi che conosco bene, persona disponibilissima. Vedo uno sguardo d'attenzione, però una impasse, una difficoltà incredibile. Lei molto brava in inglese, bravissima. Chiacchierando con lui ho saputo che è stato rimandato in inglese. A posto, c'è un'autostrada a quattro corsie libera davanti a loro. Manca solo Cupido che tac lanci il suo dardo dorato. Beh, mi sono permesso con le parole giuste di collegare questi aspetti e poi di farmi, ovviamente ci mancherebbe altro, chiaramente, da parte. Questa giovane ragazza il giorno successivo avrebbe compiuto gli anni e quindi questo ragazzo in maniera assolutamente galante e gentile manda gli auguri la mattinata del giorno seguente e lei mi scrive subito, mi ha mandato gli auguri. Ho detto io anche un pochettino così dentro di me pensavo sono affari vostri e ci mancherebbe. Ho risposto bene, molto educato e galante, ringrazialo, perfetto. Messaggino due minuti dopo: William mi ha detto prego. Cioè, non sono più abituati a dire grazie e prego. Ci rendiamo conto? Mi ha detto prego! Ed è per quello che per me, oltre che l'educazione, il dialogo, l'aspetto civile, si vede anche da questi particolari che sono molto, molto importanti. Ovviamente non ricordo che non ho risposto, che ho sorriso e lasciato seguire il corso della situazione. Però rendiamoci conto di come siamo messi, Che i giovani sul grazie non sono avvezzi a sentirsi dire prego. Ma io già li sento gli stolti, è per questo che cambio anche inserto e vado sulla stampa con tutto libri e io già li sento, ma questi sono tutti come sei formale, sono tutti quegli aspetti cerimoniosi, così. Io lo sono e va bene così. E ne sono molto fiero di esserlo e continuerò come tale, anche perché se perdiamo questi aspetti perdiamo quello che in precedenza ho citato come aspetto di umanità. A pagina 18 della stampa Antropologia abbiamo bisogno di cerimonie e rituali, solo così diamo un senso all'esistenza, dall'iniziazione dei Masai al nostro Natale. Usanze e liturgie non sono esclusiva di comunità tradizionali o religiose, di politica, di economia o di ideologie, e non possono fare a meno di rappresentare anche visivamente, arrivando in alto, quello che è un potere. È un saggio dal titolo Ritual di Dimitri Xiglatis, edizioni Feltrinelli. Gli umani traducono in eventi sensibili certi concetti per pensarli reali. Sapere che non si è soli ma che si fa parte di un gruppo aiuta sicuramente a vivere meglio. Ma non solo, avere anche la possibilità di scambiare questo rituale è una possibilità ulteriore per fare conoscenza, quello che manca tanto ai giorni nostri. Beh, a pagina 18 della stampa è interessante l'approfondimento dedicato a questa sensazione e situazione del rituale. Anche qui può essere poi frainteso in un aspetto abitudinario, e io nell'essere abitudinario non ci trovo nulla di male, anzi l'aspetto abitudinario è un fondamentale per dare quell'idea di circolarità, di continuità, di tranquillità, serenità, potrei andare avanti ad oltranza. L'aspetto abitudinario è qualcosa che è per me indispensabile, sempre tornando al famoso discorso di umanità. In musica coi Nine, Lazy Nine, tra l'altro Gianluca Petrella è uno dei musicisti in questa formazione, che però è edita da Ninja Tune. Ci sentiamo tra poco, perché parliamo di un mondo che ha dei riti strani, molto strani, ma precisi. A tra poco. Quanto è vero, Cristina, che condivide alcune riflessioni al 333-180-9494. Preparatevi, perché per voi vi è in premio un saggio. Per me veramente mi sono anche un po' strozzato. È un saggio molto bello, è un'esposizione in letteratura di statue e monumenti sul territorio nazionale. Vi è anche il capitolo dedicato a Bologna, e infatti a proposito di statue a Bologna io vorrei portare il quiz al 333-180-9494 tra tradizione felsinea e una statua di uno scienziato molto molto in gamba. Ma restiamo al filo conduttore dei nostri magazine a proposito di società. Ho parlato di rituali, no? Che restano più importanti, pensate, siamo arrivati al punto che sono più importanti tra il mondo animale che in quello umano. Tutto questo, beh, grazie anche alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale. Ma dalla pagina 18 della Domenica del Sole 24 Ore torniamo a essere umani grazie ai lemuri. Allora, il lemure così è un insieme tra un procione, un gattino, una scimmietta, è un animaletto strano, ma è strano anche in certi atteggiamenti, ma che per loro sono molto chiari. Che guerre di puzza tra i lemuri maschi. Quando litigano, quando hanno si picchiano, non hanno degli scontri fisici, anzi sono molto diplomatici. E io consiglio anche ai diplomatici degli stati in situazioni di contrasto di risolvere le controversie in questo modo. Loro nei polsi hanno delle ghiandole che secernono i lemuri, non i leader degli stati. I lemuri però hanno delle ghiandole che secernono un liquido veramente sgradevole, malodorante, qualcosa che fa scappare una... Allora, tipo uomo ragno, loro cosa fanno? Li uniscono, poi però non le mandano verso l'avversario. No, loro lo amplificano. Cosa fanno? Prendono la coda, si strofinano la coda coi polsi e poi iniziano a roteare la coda in modo che la puzza, il cattivo odore, perdonate, arrivi più in fretta possibile, in maniera più intensa, verso l'avversario. Chi riesce, perdonate il termine, a schifare l'avversario con più intensità ha ragione, è il dominante. Anche se questo ovviamente è una cosa che riguarda i lemuri maschi, le femmine sono decisamente più civili e anche più decise e determinate, perché intanto la società dei lemuri è una società matriarcale. E oltretutto, quando qualche maschio, e questo è un consiglio che, seppur da uomo, do a tutte le signorine, signore e donne, insomma, quando un maschio diventa un po' arrogante e prepotente, sapete che fanno le femmine, le signorine, lemuri? Cacciano dei ceffoni a mano aperta, tirano dei ceffoni, delle cinquine. Sono codici, sono riti che funzionano, che rendono molte volte gli animali molto più umani che gli umani stessi. Questo è il percorso dei magazine di oggi. A breve abbiamo ancora un articolo di cui vi voglio parlare, tratto da Robinson di Repubblica, ed è un consiglio per una gita. È una gita nel territorio di Viterbo, che per me è una bellezza veramente molto molto intensa, magica, esoterica, il confine con la Toscana, tra Lazio e Toscana, nella subregione definita Tuscia. Ecco, nella Tuscia vi è un parco in un comune. Io non so se è comune o frazione, non mi ricordo, però il nome non me lo posso dimenticare. È Bomarzo. Ma beh, Bomarzo, perché non lo dimentichi? Perché vi è un parco dove delle statue mostruose, veramente inquietanti e gigantesche, sono presenti per tutta l'area verde di questo immenso giardino. Ve ne parlerò a breve. Prima uno stacco musicale con i Big Cheese All Stars e vi propongo I've Got Mine. Poi tutti pronti, andiamo a Bomarzo a conoscere questi mostri. Just a little bit of communication is all we need. Arrivano i mostri, mamma mia, l'immagine da Bomarzo sul bosco di Bomarzo, teatro del mondo e di misteri, nutre ancora il nostro immaginario, celebra un compleanno speciale. No, veramente, guardate queste immagini, perché dire che sono inquietanti è un eufemismo. Nasceva 500 anni fa l'aristocratico vicino Orsini, fa costruire il parco in provincia di Viterbo. Qui tra scultura e natura continuiamo a interrogarci su questi segreti. Lui va giù di testa perché si innamora di questa giovane che purtroppo di salute cagionevole scompare. Lui colto veramente, e poi con una grande ovviamente disponibilità economica e grandi spazi di territorio, che fa? Inizia a costruire sfingi, personaggi dalla mitologia greca e culti egizi, Oriente e Occidente, che si fondono nel programma iconografico che fu ispirato dall'umanista cinquecentesco Giulio Camillo. Ma intanto che troviamo questa atipicità di immagini, perché non sono come noi le possiamo immaginare nella loro classicità, sono di una roccia che è presentissima, adesso non ricordo il nome, ma è una roccia molto friabile, pensate, la si può modellare anche con un'unghia, estremamente friabile, che dà la capacità di creare questi mostri che in effetti sono tra Oriente e Occidente, nello stesso tempo hanno un aspetto esoterico inquietante. Da Bomarzo, la famosa casa è questa dimora completamente fuori asse, e salirne i due piani porta completamente fuori di testa, è qualcosa che dà un senso di stordimento e visioni, pare che sia qualcosa di più che un semplice fuori asse con il piano orizzontale. Pare che ci sia un centro magnetico che dia questo sentirsi completamente oltre che disorientati. È un effetto che stordisce, ma in tutto il parco di Bomarzo questa sensazione è presente. Aggiungo che queste sfingi, questi personaggi mitologici, non sono statuette, sono delle costruzioni, edificazioni, sculture enormi. La Tuscia è bellissima e indubbiamente il parco di Bomarzo è un valore immenso. Io ne consiglio la gita. Detto questo, sono le 8:30 minuti che scoccano in questo momento. Nel nostro saggio continueremo a parlare di statue. 333-180-9494, lancio già il quiz. Beh, insomma, vi ho parlato di una tradizione felsinea e oltretutto anche di un personaggio, uno scienziato molto molto talentuoso, è il nostro Luigi Galvani. Beh, insomma, quando a Bologna vediamo o non crediamo a qualcosa che viene prevista ma che è impossibile, noi cosa diciamo? Se capita questo, vuoi vedere che Galvani cosa fa? Fa un gesto, compie un'azione. Non lo può fare perché è una statua, però diciamo, ma è una cosa impossibile, non può capitare. Se, guarda, è più fa, piuttosto che ciò capiti, è più facile che Galvani, e che fa, che gesto fa, come si muove, che è impossibile, è una statua, quindi va da sé. 333-180-9494, pubblicità, poi di nuovo in diretta sui 103.1. un attimo di malcelata emozione ogni volta che abbiamo la possibilità di dialogare con delle voci che sono molto attinenti alle nostre rubriche. Direi che sono i protagonisti dei format del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Come ben sapete, ogni giovedì andiamo in mostra e per quanto riguarda l'arte, la voce di Giovanni Carlo Federico Villa, curatore di diverse esposizioni che abbiamo portato nella rubrica Regola d'Arte dei 103.1, quest'oggi mattiniero, secondo me solo perché è in viaggio, ma questo lo scopriremo tra poco, è all'interno dei nostri magazine. Intanto buongiorno professor Villa. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Grazie della partecipazione, intanto l'abbiamo ascoltata più volte nella rubrica in mostra. Oggi ci troviamo qui per presentare il saggio della settimana all'interno dei magazine. Tanto lavoro per quanto riguarda le esposizioni nei percorsi a cui siamo più avvezzi. Questa volta troviamo un'esposizione su tutto il territorio nazionale che riguarda invece un lavoro importante che ha raccolto. Come nasce l'idea di portare questo popolo di statue in percorso espositivo, seppur letterario, professore? Mi sente? Se ci pensiamo, il nostro territorio è uno straordinario museo a cielo aperto, lo sappiamo per le nostre chiese, i nostri palazzi, le nostre meravigliose città, ma guarda che anima le nostre città, di cui a volte non teniamo abbastanza conto, cioè sono i monumenti, quei monumenti che rappresentano l'anima, lo spirito di ogni luogo. E quando nel 2011 si lavorò al 150enario dell'Unità d'Italia, ci si pose proprio la domanda di come mai tutti questi monumenti ammantavano le nostre città e soprattutto che storie raccontavano. E sono le storie che ho provato a narrare attraverso un viaggio in Italia, da nord, dalla Val d'Aosta fino a sud, alla Puglia, alla Sicilia, alla Sardegna, inseguendo questi monumenti e tentando di capire come queste opere siano in grado ancora oggi di darci in modo straordinario l'anima, lo spirito, tutto ciò che ha animato le nostre 100 città, i nostri 1000 borghi italiani. Oltre che la storia, divergenza e convergenza nell'aspetto geografico, siccome il nostro stivale ha un'eterogeneità incredibile anche per le tante dominazioni, i percorsi di popoli che sono stati presenti sul territorio, tutto questo è percepibile nelle statue? Certamente, certamente sì, perché le statue sono statue che vanno dal Marco Aurelio, quindi dall'ultimo degli imperatori romani sopravvissuti alle distruzioni, alle fusioni medievali, in quanto creduto un Costantino, quindi il primo degli imperatori cristiani, ma passano attraverso i grandi condottieri, Gattamelate e Colleoni a Venezia e Padova, e soprattutto nell'Ottocento sono in grado di narrarci come si è fatta l'Italia e come ogni città abbia portato un tassello al farsi dell'Italia. E questi tasselli sono il racconto della vita, della quotidianità di ognuno dei nostri paesi, delle nostre città, dei nostri borghi, dei suoi eroi locali, ma anche di tutto quello con cui si è entrato in contatto. Quindi accanto ai tre padri fondatori, diciamo così, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini rimane sempre un po' discosto, sì. Ci sono tutti quegli straordinari personaggi locali che hanno fatto l'Italia del positivismo, cioè l'Italia della scienza, l'Italia del sacro, della religione, ma anche quella della musica, della poesia, della letteratura, cioè si mette in luce che cos'è il popolo italiano, ma che cosa è stato anche soprattutto nella sua capacità di interagire con il resto del mondo e di integrarsi con tutto il resto del mondo. E la nostra lezione monumentale è proprio quella che noi abbiamo insegnato al resto del mondo, perché è stato l'ultimo grande momento, l'ultimo grande atto che l'Italia, diciamo così, da un punto di vista storico-artistico, ha imposto a tutto il resto del mondo. Certo, un popolo di statue, l'Italia raccontata dai suoi monumenti del professor Villa, è una gita continua che ci fa scoprire tutti questi amplificatori di storia e di arte. Nella nostra città di Bologna c'è un importante riferimento anche al mito. Noi abbiamo Poseidone nel nostro centro, abbiamo Nettuno, il gigante che ricorda che nonostante non proprio una adiacenza al mare, Bologna è stata una città d'acqua. Quindi veramente nella maniera più eterogenea. E poi sono rimasto colpito leggendo di Bologna e l'ho portato anche come quiz. Tra l'altro ha vinto Gianluca con risposta esatta. È Luigi Galvani, che da quello che ho letto è stata la prima statua a Bologna con un aspetto che non sia dal sacro in quanto città papale molto molto in evidenza. Ecco, Luigi Galvani è stato, da quel che ho capito, il primo scienziato rappresentato nella città Felsini, a professor Villa. Sì, è stato il primo scienziato e immediatamente ci porta in una Bologna che è la Bologna dell'università, sì, della prima grande università al mondo, 1081, la nostra alma mater, e la capacità di quella Bologna di raccontare, appunto, al di là della sua esperienza papalina, ciò che la scienza ha portato in città. E quindi Galvani, che studia attentamente di fianco a San Petronio, ma accanto a Galvani c'è proprio tutta la città d'acqua raccontata attraverso anche quelle che non sono più monumenti ma diventano, diciamo così, statue di strada. Penso, sì, alla lavandaia, che tante polemiche ha suscitato, ma anche la Bologna musicale, quindi 980 chili di marmo bianco di Carrara per narrare Fricantoni, perché in fondo i monumenti sono anche questo. Oggi, sì, noi non facciamo mente locale che ogni anno in Italia vengono inaugurati più di 100 monumenti, 100 statue di piazza, che a volte non sono più qualche cosa di condiviso dall'intera città attraverso grandi dibattiti, grandi raccolte di fondi, perché dietro ogni monumento in realtà non c'è una committenza alta, ma c'è proprio la capacità di una città, scelto il nome da celebrare, di mettersi insieme per riuscire a trovare i fondi e riuscire a dare questo momento di memoria, di identità e di storia a tutto il paese. Nello stesso tempo però oggi, appunto, ci sono queste statue di piazza più o meno controverse, che però rappresentano anch'esse assai bene i luoghi e le mire delle nuove città. E del resto un periodo controverso, no? Quindi è rappresentato in maniera assolutamente attinente in questo modo. Interessante il motivo di riflessione portato da non vi è un committente, ma vi è una città che prende un'iniziativa, per così dire, e dare un aspetto rappresentativo a simboli o a personaggi. Quindi un popolo, come viene portato nel titolo di questo saggio del professor Villa, un popolo di statue, l'Italia raccontata dai suoi monumenti. Io le faccio i miei complimenti, professor Villa. L'ho divorato nel weekend, scoprendo cose che non sapevo, e per cui ne consiglio, anzi ne obbligo la lettura, chi ha la passione per quanto riguarda queste particolarità, che particolarità non sono, ma sono aspetti fondamentali nell'urbanistica e nell'arte. Io le auguro un buon viaggio e ovviamente l'aspetto nuovamente, ma avremo modo di sentirci al più presto per l'esposizione che sarà fino al mese di agosto, dedicata ai bizantini, che lei ha curato. Mi corregga se sbaglio, professore. Assolutamente, sì, una mostra che abbiamo fatto con il MAN, il Museo Nazionale Archeologico di Napoli, il Ministero della Cultura, ma soprattutto il governo greco, che ci ha permesso di portare in Italia opere da 26 grandi musei ellenici e raccontare per la prima volta l'impero bizantino in 1000 anni di storia dell'impero più longevo della storia dell'umanità proprio. E quindi ci sentiremo a breve per avere approfondimento anche su questa specificità. La ringrazio tanto, è sempre un piacere e un arricchimento per il nostro format. Le auguro un buon viaggio. Grazie, grazie a, presto. A presto. A presto. that was all right. I'll tell you what. All right, JC, I'll have another one of those. Yeah, just like the last one. Gianluca, complimenti, hai vinto questo lavoro splendido. È come entrare in mostra, ma su tutto il territorio nazionale, e portando la particolarità appunto di queste statue e monumenti. Esatta la risposta che hai dato. Quando una cosa, beh, ne siamo certi, non capiterà mai, noi bolognesi diciamo, è impossibile, è più facile che Galvani volti pagina. Galvani che volta pagina, beh, è qualcosa di impossibile. Certo che la rana resterebbe un pochettino frastornata, ma con me è stato appunto, come ho detto, la fantasia felsinea porta a questo pensiero, a questo detto, che Galvani volta pagina. Bravo Gianluca, sarai richiamato e avrai appunto le istruzioni per la consegna di questo lavoro che ha portato in frequenza l'autore Giovanni Carlo Federico Villa, che sentiremo, abbiamo già sentito il suo approfondimento sul lavoro alla GAM di Bergamo, Palma al Vecchio, l'abbiamo trovato anche in altre esposizioni, in questo caso l'abbiamo trovato ai magazine. Bene, quindi grazie a queste voci, ma soprattutto sì, grazie a voi per l'attenzione, per la co-conduzione, per la mattinata che abbiamo trascorso assieme. Do appuntamento a domani per il Move to Groove del martedì. Vi auguro una buonissima giornata, vi auguro un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1. Per oggi è veramente tutto. Mi raccomando, leggete i magazine, questo è un consiglio spassionato che do. Un caro saluto e un caloroso abbraccio, un buon lunedì e una buona settimana dal vostro William Piana. A domani. Side.